Libro di su Tiziano Terzani, di Gloria Germani, Tiziano Terzani, La rivoluzione dentro di noi, edito da Longanesi. È un testo molto bello, perché scritto dopo la morte di Terzani da una persona che ha amato il suo modo di pensare e ha creato una sintesi del suo pensiero. Naturalmente il suo pensiero è distribuito in decine di libri. Terzani è giornalista, ha viaggiato il mondo, mantenendo uno spirito laico. È partito in realtà con delle idee ben forti nella sua vita, idea marxista-leninista, aveva una grande simpatia per Mao Zedong, aveva cambiato appunto con la rivoluzione cinese e così via. Lui era stato in America a studiare il cinese, all'università americana a studiare il cinese, poi finalmente era potuto andare in Asia e poi anche in Cina, quando le porte si furono aperte agli occidentali. Ebbene, Terzani si trovò lì, sempre sui momenti critici dei cambiamenti della storia, quando i Viet Cong entrarono nel sud, nella capitale del sud, e scrisse proprio un libro con il titolo, da caso, il cui titolo è Liberazione. Liberazione in vietnamita, adesso qui vedo, insomma, due parole vietnamite che significano liberazione. E Terzani era convinto che i Viet Cong avrebbero portato finalmente la pace, la serenità. Anni dopo, quando tornò in Vietnam, scoprì che la prevaricazione, la corruzione esistevano esattamente come prima e quindi ne ebbe una grandissima delusione. La stessa cosa accade col regime di Mao Zedong. Mao Zedong, insomma, fu il pregio di Mao Zedong. Bene, la Cina era stata sempre isolata dall'Occidente, poi cominciò a essere invasa da paesi occidentali che erano interessati, come al solito, a scambiare merci con la Cina e soprattutto a sfruttare la situazione tipo coloniale cinese. E soprattutto erano interessati all'oppio. Bene, il comunismo rappresentò per i cinesi la promessa di liberazione dell'Occidente. Mao Zedong fu questo, liberazione dall'Occidente, dall'oppressione degli occidentali. Però Mao Zedong cosa fece? Fece distruggere praticamente tutta la cultura cinese, fece distruggere tutto quello che riguardava la religione, le tradizioni, alcune delle quali veramente antiche e valide. Pensare al confucianesimo, una visione di una società armonica in cui ogni livello doveva occuparsi degli altri, cioè sì, d'accordo, i livelli bassi dovevano preoccuparsi dei livelli più alti, ma viceversa, cioè ci doveva essere un continuo scambio, un po' come un organismo vivente. Benissimo, e con Mao Zedong che cosa accadde poi con la rivoluzione culturale? Beh, accadde che l'oppressione non finì affatto, e Terzani la descrive molto bene sui libri nella Cina. E quando poi Mao Zedong morì e Mao Zedong seguì Deng Xiaoping, non trovò, visto la situazione di guerra civile che c'era praticamente in Cina, non pensò altro che l'unica soluzione era affidarsi all'economia di tipo occidentale. Quindi, mantenendo la struttura comunista del governo tiranno, ma affidandosi all'economia occidentale. E quindi anche questo, nel vedere la Cina, Terzani vede come questa la disgregazione di questo paese, di conseguenza di questa mancata rivoluzione vera. Lo stesso poi Terzani poté vedere in Cambogia, naturalmente con i Khmer Rossi quando andarono al potere, e poté poi andare in Cambogia quando dopo il regime di Pol Pot vedere le fosse piene di scheletri. Di persone uccise, 2 milioni di persone, quindi rivoluzionari che per uno scopo positivo, no? Liberare il paese dall'oppressione, poi in realtà diventarono più oppressori degli oppressori. E poi poté seguire la vicenda giapponese, che il Giappone era stata un'isola isolata dal resto del mondo, ma fu poi contattata ovviamente dall'Occidente. E i giapponesi seguirono una via particolare, quella di cercare di assimilarsi all'occidentale, lasciando andare le loro tradizioni e quindi creando una cultura che voleva somigliare il più possibile alla nostra, anzi superarci nella nostra efficienza e produttività. E quello che Terzani poté vedere, giapponesi che lavoravano 10-12 ore al giorno, ma che avevano un tasso di suicidi più alto possibile al mondo, e di notte avevano tutti pornografie, locali notturni, luce rossa, queste cose. Quindi in tutte queste rivoluzioni, Vietnam, Cambogia, Cina, Giappone, fallirono tutti. E allora questo fece riflettere Terzani su qual è la vera rivoluzione. Non si può sostituire un oppressore con la violenza, bisogna fare una rivoluzione interiore. Ed è questo il grande messaggio che ci dà Terzani, e che da laico, laico vero, che non aderisce alla prima diversa religione che incontra, diverse ideologie, ma che è in grado di mantenere la sua indipendenza di pensiero, davvero laico, ci dice che il lavoro da fare è un lavoro tutto interno, prendendo naturalmente spunto da che cosa? Dalla visione del mondo che avevano le antiche tradizioni sapienziali, in cui si vedeva il mondo come uno. Anziché, e qui leggo solo due pagine, come dire, mentre il paradigma scientifico occidentale ci ha abituato a frammentare il mondo, per capire come il mondo funziona dobbiamo dividere la materia in frammenti sempre più piccoli e esaminare ciascuno di essi singolarmente, dice Terzani. Ma ciò comporta un prezzo, perché l'io finisce per separarsi dal mondo, no? È proprio questa, la separazione dell'io dal mondo. E da questo cambio di atteggiamento mentale discendono molti problemi relativi all'etica. Da un atteggiamento che incoraggiava la compassione e l'empatia verso tutto ciò che vive, cioè l'atteggiamento che deriva dal tutto è uno, io sono parte di qualcosa di più grande, si è passati a un atteggiamento distaccato verso un mondo oggettivo, esterno, che poi diventa oggetto di sfruttamento, che non ha alcun fondamento etico, nessun fondamento etico. Ma quindi l'orizzonte più grande che Terzani ci apre coincide con un cambiamento radicale del nostro modo di pensare. In questo noi ci troviamo totalmente d'accordo, può essere il nostro maestro, il nostro mentore, uno dei nostri più grandi mentori, perché è occidentale come noi, mentre Thich Nhat Hanh ha avuto una formazione buddista, naturalmente pensa da buddista, Terzani ha avuto una formazione laica, addirittura marxista. E quindi questa sua trasformazione per noi è particolarmente interessante, soprattutto perché è una persona che ha viaggiato molto. E quindi ha detto: io non posso capire i presupposti impliciti nella mia cultura se non vedendoti con gli occhi di un'altra cultura. È una delle caratteristiche Terzani quando viaggiava, quando faceva il giornalista per Der Spiegel, è che non rimaneva negli alberghi a 4-5 stelle in cui stanno normalmente gli inviati speciali, ma viveva in mezzo alla gente comune, si vestiva come loro, mangiava come loro, partecipava alla loro vita, perché voleva cominciare a entrare, a assimilare la loro cultura. Cioè, a questo punto diventava un antropologo della seconda maniera, cioè la seconda maniera di Malinowski, insomma, no? Entrare in empatia, entrare nel mondo dell'altro, come del resto faceva Grinder con la lingua, quindi il padre fondatore della PNL, entrare nel mondo dell'altro e da lì osservare la cultura occidentale. Allora lì capisci qualcosa su di te. Quindi paradossalmente per capire chi sono io ho bisogno di uscire da me, entrare nell'altro, in più altre persone, entrarci così tanto da vedere il mondo come lo vedono gli altri e da quel punto di vista osservare me. Questo non è solo un'operazione di antropologia culturale, è un'operazione psicologica fondamentale e di salute psichica, perché la nostra malattia avviene nel momento in cui ci svogliamo. E quindi diamo per scontati e validi i nostri presupposti, mentre i nostri presupposti sono questi che creano le nostre gabbie, le nostre nevrosi. Quale altro modo c'è migliore di questo, di entrare nel mondo di un altro o di un'altra cultura e osservarci da lì? Terzani ha avuto dei periodi di grande depressione in conseguenza delle rivoluzioni fallite a cui ha assistito, aveva proprio dei momenti di enorme tristezza. Il medico naturalmente gli prescrisse il Prozac. Ma lui non lo prese mai, perché si rendeva conto che non si può vivere bene quando si assiste a rovine come questa, perché siamo cellule di un organismo malato. E da questo suo travaglio personale, che è durato decenni, è giunto poi alla fine ad essere un uomo illuminato, una persona illuminata non per una folgorazione, ma per un lungo e lento lavoro di trasformazione personale. Quando andava in un paese nuovo, ne studiava la storia, studiava veramente a fondo che paese era, ma poi viveva con persone del paese stesso, nelle loro case, insieme a loro, vestendosi, come ho detto prima. E questo continuo lavoro che ha fatto su se stesso gli ha consentito di arrivare, come sintesi finale, a una visione che poi è una visione buddista, ma non là attraverso il modello, semplicemente l'imitazione del buddismo. Ricordiamoci la frase di Picasso: i geni copiano, i mediocri imitano. Lo diceva a proposito di De Chirico. De Chirico copiava i quadri di Raffaello, di Michelangelo. Cosa vuol dire che copiano? Vuol dire che diventano come loro, cioè vedono il mondo con gli occhi loro. Chi imita? Imita dall'esterno. Ecco la grande differenza tra copiare e imitare. Bach ha copiato Vivaldi per anni. Soltanto dopo ha potuto sviluppare questa sua straordinaria creatività. E questo è un monito che ritengo importantissimo per tutti coloro che vogliono fare una trasformazione personale. È l'orgoglio che ci impedisce di copiare. Molte persone per diventare trainer credono che devono sviluppare le loro formidabili caratteristiche individuali. Ma Bach non ha fatto così. Bach ha sviluppato la capacità umile di copiare gli altri. E così hanno fatto tanti grandi musicisti, grandi scrittori. E Terzani è uno di questi grandi che ha copiato, cioè è entrato nel mondo di altre civiltà, ha visto il mondo suo e nostro con quegli occhi e ha sviluppato questa grande saggezza. Dice Terzani: ogni giorno di più sentiamo aumentare il disagio esistenziale, la sofferenza psichica, ma continuiamo a pensare che, così come ci ha insegnato la psicanalisi, che è la biologia fondamentale del Novecento, tutto ciò riguardi solo l'individuo e sia dovuto a remoti traumi infantili e conflitti personali. Oggi la versione moderna della psicanalisi è una costellazione familiare. La psicanalisi ormai è un po' vecchia, allora si fa costellazione, allora si crede che tutti i nostri disagi dipendono dagli irretimenti familiari e ci si dimentica che questi irretimenti sono potuti avvenire perché siamo in una cultura che non solo li consente, ma che li provoca. È totalmente sintonica a questi irretimenti. La violenza che c'è nella nostra cultura, la violazione della verità fondamentale, tutto è uno. Quindi io non posso far del male a mio padre o a mia madre senza far del male necessariamente a me. Queste le costellazioni familiari ce lo insegnano. Ma nella formazione costellazioni non è sufficiente il lavoro rispetto a cosa vuol dire io mondo. Indipendentemente dalla famiglia dove io ho vissuto, proprio perché partecipo a una cultura separativa come la nostra, io sono già malato, vedo il mondo distorto. Infatti dice Terziani: ma siamo proprio sicuri che la mia sofferenza non dipenda, oltre che dalla mia famiglia, dalle cose che ci insegna la psicanalisi o le costellazioni, anche dalla nostra stessa visione del mondo, incentrata e dominata com'è dalla separazione tra l'io e il mondo esterno, tra il mio io è quello degli altri. Okay. Per lui, solo se ci esponiamo a qualcosa di completamente diverso, di radicalmente altro, potremo mantenere viva in noi la stessa capacità di elaborare nuove visioni che hanno avuto le grandi tradizioni. Di più, solo in questo mondo potremo mantenere la capacità di essere fecondati per dare forma a un nuovo processo vitale. Guarda qui che meraviglia. Cioè, se io davvero mi lascio fecondare da un'altra cultura, da un'altra persona, potrò produrre qualcosa di nuovo. Divento come una donna, cioè come una che riceve un seme. Quindi pensa a questo modo di funzionare, quanto è questo modo di pensare di Terziani, quanto è non intellettuale, non si basa sulla legge dei numeri, ma si fonda sull'esperienza personale e sull'uso delle metafore, sulla struttura che connette, come diceva Gregory Bateson. Dice ancora Terzani: il dialogo tra Occidente e civiltà asiatica è forse l'unica possibilità che avremo nel nostro futuro. Perché? Perché la civiltà asiatica incarna soprattutto una profonda visione del mondo, ed esse è ancora l'unica rimasta in vita, ancora esistente, ce n'erano altre, ma l'unica rimasta esistente davvero è questa, ecco, che non è quindi soltanto una realtà archeologica, ma è una realtà ancora vivente, e quindi questa realtà vivente, diversa dall'occidentale, è l'unica che può ancora fecondarci come un seme autentico. Quindi poi lui dice, continua, quello che spingeva a viaggiare era il bisogno di capire l'altro profondamente, guardandolo, per così dire, dall'interno, diventando l'altro, identificandosi col suo modo di vivere e pensare. Un atteggiamento così inconsueto da poter dare adito all'accusa di attività controrivoluzionaria, come accadde in Cina, dove gli valse l'espulsione. Fu sempre questa inesausta curiosità nei confronti dell'altro che lo portò a oltrepassare frontiere pericolose, per ben 3 volte mettere seriamente in repertaglio la sua vita. Ripeto ancora, ha sempre voluto calarsi nei mondi in cui viveva, imparando lingue, vestendo come gli abitanti del posto, mangiando le stesse cose, ma anche inserendo i figli nelle scuole locali, viaggiando in bicicletta o in treni di terza classe. Benissimo.